Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla, di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se no non ti sentono. Sto leggendo, non voglio essere disturbato. Era Antonio Dini che legge l'ebook. Che? Spiegami qual è la differenza tra leggere un ebook e leggere un romanzo, in questo caso di Italo Calvino. È uguale? È come fischiare in inglese e fischiare in francese, è la stessa cosa. Certamente, solo che cambi continente, nel senso che qui non hai la carta. C'è il romanzo, ma manca il foglio di carta su cui sta il romanzo. Io sono Luca Tremolada e ho davanti a me Antonio Dini che sta stringendo in mano un ebook che sarà l'argomento di tutta questa puntata, perché noi vogliamo capire dai nostri ascoltatori se è meglio la carta o la parola elettronica, se è meglio avere un dispositivo tutto sommato rigido, anche un po' freddo, anche un po' plasticoso, oppure un buon caro vecchio libro. Già si capisce quali sono le mie idee. Telefonate all'824 0024 o al 349 238 6666. Ma Antonio, che cos'è? Cominciamo dalle definizioni fondamentali. Che cos'è l'ebook? L'ebook è un modo per trattare libri in formato digitale, oppure è il supporto, l'ebook reader, il lettore di ebook, che li contiene. E non è assolutamente una cosa nuova, Luca, non è talmente una cosa nuova che mi dispiace dirtelo, ma addirittura c'è anche chi ha pensato di costruire un museo, pensa te, degli ebook. Lui si chiama Luca Calcinai, buongiorno. Buongiorno. E adesso sentiamo chi è nella scheda di Antonio Dini. Gli ebook reader, i lettori di libri in formato digitale, per molti sono una novità assoluta. Permettono di leggere un libro senza più bisogno della carta, utilizzando una tecnologia innovativa chiamata inchiostro digitale, che non affatica gli occhi come gli schermi del PC e che non consuma le batterie. Gli ebook reader sono una novità per molti, ma non per tutti. Luca Calcinai e un gruppo di appassionati liguri, infatti, hanno già realizzato il primo museo dell'ebook. Il museo non ha una sede fissa, ma è praticamente una esposizione itinerante, composta da un buon numero di apparecchi ebook reader. Prototipi, pezzi unici, modelli addirittura già andati in pensione. Anche perché in realtà di storia sulle spalle gli ebook ne hanno già parecchia. I primi modelli risalgono infatti alla metà degli anni Ottanta e ne sono state prodotti decine di tipi diversi, soprattutto in Asia, Corea del Sud e Giappone. Il Museo Italiano degli ebook si è fatto conoscere per la prima volta la scorsa primavera, aprendo una sede volante a Torino durante il Salone del Libro. Oggi è possibile incontrarlo durante le pizzate mensili degli appassionati genovesi di libri elettronici, oppure nelle Marche, dove altri appassionati hanno cominciato a interessarsi al fenomeno dei libri da leggere senza la carta. Ecco, tra l'altro è degli anni Ottanta, mi hai detto, per cui, cioè, come scrivi nella scheda, stiamo parlando di una tecnologia che ha 80, 90, 30 anni, no, 20, 20 tutti, 20 rotti. Ma anche di più. Nel senso che è una tecnologia che nasce già vecchia o è una tecnologia che sta cambiando o si sta perfezionando, per cui è anche per questo il motivo per cui io non li abbiamo in mano? Ma i motivi sono due. La prima cosa è che il libro, cioè l'idea che il libro sia composto da bit anziché essere stampato sulla carta, risale addirittura agli anni 70, all'inizio degli anni 70. Accidenti. Col progetto Gutenberg negli Stati Uniti di digitalizzazione dei libri. E poi successivamente sono nati anche i primi apparecchi diversi dal PC, cioè non dallo schermo del PC, per poter leggere questi libri in formato digitale. Ecco, Calcinai, qual è la reazione al museo dell'ebook? Cioè, che reazione hanno i visitatori nel vedere tutto sommato una tecnologia, un prodotto, un dispositivo che ancora non trovano nel negozio o trovano difficilmente? Beh, la reazione ovviamente è immediata, nel senso che il Museo dell'ebook innanzitutto nasce proprio come provocazione, ovvero sia con l'intento di presentare una tecnologia che già esiste, ma che si ha adesso sembra nuova, sembra una cosa nuova, sembra una cosa futuribile, ma che in realtà molti lettori, molti appassionati, eccetera, utilizzano già da diversi anni. Tra l'altro ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori. Un ascoltatore, Andrea, dice: io ho un bel iPhone nuovo di zecco, carico di ebook, ma proprio non ce la faccio, il fascino del libro per me non svanirà mai. Vado ancora avanti, assolutamente la carta, perché è piacevole trovare tra le pagine la spiaggia, aghi di pino e, cos'è che c'è scritto, anche biglietti del metro, attenzione. Però è vero che c'è questo indubbio potere del foglio di carta, capace un po' di, con un attaccapanni, di tenere i ricordi. No, esagero. È vero, sono anche d'accordo, perché io nasco proprio come appassionato di libri. Leggo, ma faccio anche restauro di libri antichi, nel mio piccolo. Quindi conosco il piacere della carta, però mi sono reso conto che la differenza tra il libro inteso come contenuto del libro e come contenitore sono due cose diverse. Io posso godermi tranquillamente un romanzo, un saggio, eccetera, anche su un ebook, perché quello che poi mi resta dentro è quello che leggo, non quello che tengo in mano. Luca, ti faccio una domanda. Degli ascoltatori, tra scegliere tra un apparecchio elettronico oppure un libro cartaceo, perché anche io mi sono fatto questa domanda. Luca, ti faccio una domanda, un dubbio che secondo me in molti hanno quando si parla di ebook, e ce l'ho avuto a lungo anch'io, diciamo che è una domanda facile, ma non ci si fa male agli occhi a leggere sopra questi apparecchi elettronici? Beh, se parliamo di schermi LCD, cioè quelli dei computer normali, sì, però è già da parecchi anni che esistono in commercio gli schermi cosiddetti e-ink, cioè ovvero sia a inchiostro elettronico, è una cosa diversa. Allora abbiamo Luca da Pistoia che credo che voglia fare una domanda di questo tipo. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Mi dica. No, ecco, più che una domanda, probabilmente quando ho chiamato per intervenire non avevo ancora idea di cosa fosse un ebook, perché il mio problema era proprio quello di provare a leggere libri al computer e dopo un po' non farcela più per il male agli occhi. E quindi sarebbe troppo facile dire che è preferibile il libro di carta, è bello averlo, è bello acquistarlo, eccetera. Probabilmente se esistono ebook in cui non ci si affatica, è chiaro che Mi sta già dicendo che è stato già convinto? Cioè sono passati 5 minuti di trasmissione e è già passato dalla parte dell'ebook, non ci credo. No, è che quando non conosco io il dubbio lo lascio sempre aperto, insomma, e non conosco l'oggetto. Peraltro uno può scegliere, almeno dopo aver letto un ebook, se comprarsi il cartaceo oppure fare come a volte succede, comprarsi un libro e poi fa schifo e neanche lo leggi, insomma. Ecco, noi abbiamo in studio Fausto Colombo, professore dell'Università Cattolica, massimo esperto di nuovi mezzi di informazione, nuovi mezzi di informazione di massa, perché poi non sappiamo quanto sarà di massa, ma la domanda è: questi nuovi dispositivi stanno provando, cioè stanno rosicchiando spazio al libro, oppure sono due mondi paralleli che fondamentalmente si toccheranno solo dal punto di vista del contenuto? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto, ma io credo che sia la solita storia di quando abbiamo a che fare con la digitalizzazione, cioè è successa una cosa molto semplice, noi eravamo convinti che i mezzi di comunicazione, i media, fossero caratterizzati dalla loro piattaforma, quindi la televisione si vede sul televisore, la radio si ascolta alla radio, il disco si ascolta sul giradischi, eccetera. Posso andare avanti anche una giornata, ma credo che sia abbastanza. Oppure, come succede adesso, lo stesso contenuto, lo stesso medium circola su piattaforme diverse, no? Quindi sul computer possiamo ascoltare la musica, leggere il giornale, guardare la televisione, il libro possiamo averne una versione cartacea e una elettronica come l'ebook. Tanto per capirci, faccio un esempio personale. Io non ho un ebook, adesso ci penserò dopo questa trasmissione. Fra un mesetto faccio un tour di conferenze in Giappone. Allora, siccome leggo, come penso molti di noi, parecchi libri, mi dovrò scegliere fra portarmi 5 o 6 libri con pesantezza aggiunta, perché il giapponese lo leggo male, quindi oppure portarmi un ebook con caricati 5 o 6 libri con un peso nettamente inferiore, mentre se devo leggere a letto, come già diceva Umberto Eco, non c'è dubbio che scelgo il libro cartaceo. Infatti Luca, volevo dirti questo, alcune statistiche sugli utilizzatori degli ebook ci sono e la maggior parte di loro sono persone non giovanissime, dai 35 anni in su, ma soprattutto sono, oltre che grandi lettori, anche grandi viaggiatori, perché in quest'epoca di scoperta della nuova tecnologia è l'aspetto che lo rende differente dal libro tradizionale, cioè la leggerezza. L'apparecchio da cui leggevo prima l'attacco del libro di Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, pesa poche decine di grammi e può contenere alcune migliaia di libri, non centinaia, migliaia, più di quanti probabilmente non ne leggerò in tutta la mia vita. E questo è un aspetto significativo. Faccio l'avvocato antipatico e mostro l'ebook di Dini alla webcam, hai visto che incrocio tecnologico. Qua dicono gli ascoltatori, sì, però il libro non si guasta. Cioè, è vero che prende spazio, è vero che è pesante, è vero che porta via, che è ingombrante, però insomma non rischi di arrivare alla conferenza in Giappone e poi schiaccia, succede qualcosa. Vabbè, ogni tecnologia ha il suo livello di crack, come si dice, nel senso di rottura e non di altro. E quindi vale naturalmente per l'ebook. Ovviamente non c'è la tecnologia perfetta, ma questo vale anche per il libro. Il libro si bagna, io vado in barca e ne ho persi un paio vergognosamente bagnati da una tempesta. Cioè succedono cose a tutte le tecnologie. La realtà è che però noi non usiamo quasi mai, quasi più in nessun campo, una tecnologia sola, una sola piattaforma, ma tendiamo a usare tante piattaforme, ciascuna delle quali più adeguata a un certo tipo di consumo, diciamo tecnicamente per la teoria dei media. Non è importante la piattaforma, è importante il rituale. La realtà, la cosa interessante è che in questo tipo di tecnologia, grazie per esempio alla facilità di lettura, noi possiamo leggere un ebook esattamente come leggiamo il libro, nel senso che possiamo avere quasi lo stesso rituale, anche se in contesti diversi, appunto il viaggio piuttosto che il letto. Ma una domanda, ma siamo proprio sicuri che abbia senso l'ebook solo con l'ebook reader, per cui diciamo il dispositivo che consente di leggere il libro solo come dispositivo per leggere il libro, mi spiego meglio, perché non trasformare questo diciamo simulacro elettronico di un libro in qualche cosa che mi dia una profondità maggiore, che mi dia le foto, che mi dia un aggiornamento, che mi dia un file audio, che mi dia qualcos'altro? Stiamo parlando di un altro, qui magari sto sbagliando, c'è Dini che scuote la testa, stiamo parlando di un altro prodotto? Stiamo parlando del PC, ce l'abbiamo già il PC, voglio dire, che fa tutte queste cose. Il PC è una macchina generalista in cui installi il software e vai. I telefonini stanno diventando questo tipo di cose, nel senso che le nuove generazioni, a differenza che servire solo per telefonare o per mandare i messaggini, adesso puoi installare software e fai tanti cose. L'ebook reader in questo momento è un oggetto a sé stante, è come erano all'inizio i primi lettori di MP3, cioè apparecchi monofunzione, che però quella funzione la fanno molto bene. Oltretutto non sono così una novità epocale, come dicevamo, perché c'è addirittura un museo. Questo vuol dire che ci sono ancora un po' di anni di storia di questi ebook. Io non so precisamente, fra le altre cose, di quanti anni tecnicamente, lo sa sicuramente meglio di me Calcinai, e sa anche Calcinai chi è che ha questi pezzi unici in tasca che li dona dal museo. Di chi si tratta? Chi sono i proprietari di ebook reader così esotici in Italia? Per la maggioranza sono i soci delle book club. Qui a Genova con degli amici abbiamo fondato un ebook club perché ci piace proporre, leggere gli ebook, e ci siamo resi conto di aver avuto qualche pezzo in mano un po' obsoleto. Ormai nella tecnologia l'obsolescenza è questione di anni, se non di semestri. Ecco, contattando anche altri amici, altri conoscenti, abbiamo avuto in prestito incomodato questi apparecchi qua che ci piacerebbe poter esporre. Ecco, ma com'è che funziona? Cioè vi ritrovate in una sala, vi passate, com'è che funziona praticamente? Il museo ancora non esiste fisicamente, abbiamo una valigia con tutti questi pezzi piuttosto particolari, abbiamo anche dei prototipi molto interessanti che non esistono ancora sul mercato. E è capitato un po' come provocazione di esporlo alla Fiera del Libro di Torino quest'anno, ci è stata data una vetrinetta per poter esporre, abbiamo messo l'etichetta Museo delle Book e ha avuto un successo incredibile, perché proprio per quello che dicevamo prima, che l'ebook sembra una tecnologia del futuro, ma invece c'è già un passato, che risale al 1994-93 addirittura, con il Newton della Apple, che era un palmare, il primo palmare, il primo dispositivo che si poteva tenere in mano come un libro e leggere questo. Ma la vera tecnologia dell'ebook nasce poi nel 2004, se non sbaglio, con la tecnologia Ink, ovvero sia questi display che sembrano proprio di carta. Sì, sì, no, noi lo stiamo vedendo con li abbiamo davanti, e poi magari pubblicheremo anche le foto, perché no, nel Twitter di Novalab 24. Tra l'altro c'è anche una mezza rivolta, nel senso che un ascoltatore, Omar, si chiede: sì, vabbè, ma poi i librai chi li mantiene? Cioè... questo è un bel problema. Quando arrivano le nuove tecnologie c'è sempre il problema di ritrovare un equilibrio con quelle preesistenti, perché questo è un tema diverso, non si tratta tanto del libro ma del meccanismo con cui tradizionalmente viene distribuito il libro. Io non mi stupisco che a Torino ci sia stato un gran successo durante il salone tra editori e persone che lavorano nel mondo dell'editoria, facendo vedere gli ebook reader praticamente in anteprima per l'Italia, perché il mondo editoriale italiano, come quello degli altri paesi europei e statunitensi, sono molto preoccupati perché un cambiamento può voler dire chissà che cosa. Chi è che ci rimette? L'edicola, la piccola libreria, la grande distribuzione, la casa editrice, l'autore? E proprio su questo tema abbiamo Paolo da Pistoia in collegamento. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io penso che il libro sarà la soluzione pura libreria di scuola. Allora, prova a riassumere perché si è sentito male. Il signor Paolo da Pistoia diceva: secondo lui l'ebook potrebbe essere la soluzione per i testi scolastici, soprattutto quelli che hanno dei prezzi elevati. Potrebbe esserlo? Ma sì, diciamo, può esserlo per molte cose, tenendo presente che in qualche caso sarà sostitutiva, e penso che sia la soluzione che è appena stata proposta, cioè perché si dà con una spesa limitata un ebook a tutti i ragazzi e poi i ragazzi caricano dei libri che ovviamente costeranno molto meno. Oppure può essere anche una scelta molto diversa. Sappiamo che molte persone che scaricano musica poi comprano i CD lo stesso, nonostante quello che si dica. Perché uno dovrebbe comprare... Questo è un temone, però senso. Diciamo, succede, ne avete davanti uno. Quindi perché uno che ha scaricato la musica, ovviamente sempre pagando, poi dovrebbe anche avere un CD? Perché probabilmente gli usi sono differenti, e lo stesso sarà per il libro, credo. Noi torneremo a parlare di ebook, anche perché in collegamento con noi c'è Antonio Tombolini, fondatore di Simplicissimus. Ciao a tutti. Allora, resti con noi, perché adesso noi diamo la linea alle borse in diretta e poi lei ci racconterà bene come mai ha cambiato vita, no? Ci prova, nel senso che ci racconterà perché ha cambiato vita, che cos'è Simplicissimus e soprattutto quali sono le prospettive degli ebook in Italia. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada. Stiamo discutendo di ebook, stiamo discutendo di libri, stiamo discutendo se sia meglio la carta o le parole elettroniche, e se avete dei consigli 824 0024 o 349 238 6666 se volete scriverci un SMS. Ma abbiamo in linea Antonio da Caserta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Premesso che sono un innovatore, quindi sarò un po' di parte. Quindi è di casa qui? Sì, quando posso, volentieri. Dicevo, in realtà utilizzo il formato elettronico di ebook già da anni, sia con degli ebook reader integrati su dei palmari cellulari, e sia dei voice book, no? I famosi libri parlanti. Sì. Detto questo, io credo molto nell'integrazione di questi nuovi ebook, questi con inchiostro elettronico. Ad esempio, ho sentito che Amazon dà la possibilità attraverso un suo reader, il Kindle, esattamente il Kindle di collegarsi al web e poter acquistare, certo, ecco, ad esempio secondo me dare la possibilità attraverso magari una SIM, una scheda telefonica di un operatore, di collegarsi al web e scaricare contenuti informativi, quali possa essere ad esempio un quotidiano, ad un prezzo notevolmente inferiore di un quotidiano, secondo me può dare quel reale valore aggiunto che potrebbe, diciamo, innescare. È chiarissimo, cioè, dice, perché non portare il quotidiano di carta dentro all'ebook? Antonio, ci stanno un po' provando, no? Ci sono qualche sperimentazione in giro? Ci stanno provando, no? Non voglio fare la figura di quello che tu vuoi fare l'americano, però a Seattle ero andato un po' di mesi fa a incontrare proprio i vertici di Amazon per vedere come funziona questo Kindle e provare. Pensa che anche alcuni quotidiani italiani vendono però solo negli Stati Uniti la versione elettronica. Come funziona? Il giornale, anziché essere di carta, è fatto in maniera digitale e senza fili wireless, viene spinto push la mattina all'interno del lettore, così che la persona non deve neanche aprire la porta a prendere il latte e il giornale, ma se lo trova direttamente sul comodino senza fili. È una bella idea con ancora molti limiti però di implementazione, perché in realtà non ti danno il vero giornale, ti danno il testo del giornale, quindi non c'hai i titoli, non hai le foto, non hai quella dimensione delle notizie più importanti, delle notizie meno importanti. Non hai lo sfoglio, sfoglio, ti manca un po' la costruzione della pagina. Però visto che sei stato a Seattle, un ascoltatore ci chiede: esiste una biblioteca per gli ebook? Allora, negli Stati Uniti lo stanno facendo, non lo fa Amazon vende i suoi libri e li vende anche alcuni, li dà via gratuitamente a determinate condizioni, sono molto pochi, anche un po' per aprire il mercato. In realtà, per esempio, la biblioteca di New York, una delle biblioteche cittadine di New York, dà la possibilità di prendere in prestito il libro in formato digitale, però cercando di simulare, anche per motivi di copyright, i limiti della biblioteca vera, ossia prendiamo un libro X che si prenda in prestito, ce ne sono solo due copie virtuali, e se la prendo in prestito io, Luca, tu non puoi averla se non ce n'è un'altra a disposizione fino a che non scade il mio prestito, cioè fino a che io virtualmente non la riporto indietro. Questo probabilmente per impedire che come dire, il prestito infinito di quella copia che potrebbe essere scaricata, creano le condizioni di una scarsità di risorse. Sì, cosa sì. Tremenda. Abbiamo in linea Marco da Torino, buongiorno. No, è caduto Marco da Torino. Allora, sentiamo Antonio Tombolini, che nel frattempo era in collegamento con noi. Sentiamo chi è nella scheda di Antonio Dini. Se fosse per lui, da più di 5 anni tutti gli italiani potrebbero leggere i libri senza più bisogno della carta. Ma Antonio Tombolini non è stato ascoltato dalle grandi case editrici. Quando ha cominciato a proporre l'utilizzo degli e-book reader e dei libri in formato digitale come futuro per il settore editoriale, allora ha deciso di prendere un'altra strada. Antonio Tombolini, 49 anni, marchigiano di Loreto dove vive, ex dirigente d'azienda ed ex imprenditore del web, ha deciso che se gli e-book non venivano all'Italia, allora sarebbe andato lui, Tombolini, a prenderli. Il risultato è Simplicissimus Book Farm, la fattoria dei libri di Simplicissimus. Una comunità digitale, un centro di diffusione per la nuova tecnologia dei libri digitali e degli e-book reader, un tentativo di aiutare l'innovazione che da noi in questo settore stenta. Ed è un peccato, come dice sempre Antonio Tombolini, perché se è vero che il tedesco Johann Gutenberg ha inventato la stampa a caratteri mobili, in Italia non ci possiamo certo lamentare. Basti pensare al parmigiano Giambattista Bodoni, che ha praticamente inventato la moderna tipografia con i suoi eleganti caratteri di stampa. Intanto, il lavoro di Antonio Tombolini per portare l'e-book nel nostro paese continua. Quindi lei è stato folgorato sulla via dell'ebook per dire una stupidata? No, stupidata fino a un certo punto, nel senso che naturalmente seguivo per passione e interesse, come credo tutti noi che stiamo parlando di questa cosa, la lettura, i libri e quant'altro. E poi mi è capitato di incontrare molto presto qualcuno che stava lavorando su questa tecnologia in Philips, in quella che poi è diventata una società, uno spin-off del gruppo Philips che si chiama Irex Technologies, che mi ha fatto vedere i primissimi prototipi delle macchine basate su inchiostro elettronico. E la folgorazione a quel punto, se vogliamo parlarne in questi termini, c'è stata perché mi è sembrato che effettivamente questa tecnologia potesse colmare una lacuna a cui io ancora oggi continuo ad attribuire il ritardo con cui siamo arrivati a parlare di digitalizzazione nel campo dei libri, e cioè la mancanza di uno strumento dedicato esplicitamente alla lettura prolungata. Il libro nasce ormai digitale, potremmo dire da decenni, quindi l'ebook inteso come contenuto digitale esiste da decenni, mancava uno strumento per una fruizione confortevole del testo digitale, e Inc. mi era sembrata fin da allora la risposta, e questo è il motivo per cui... Ma quindi perché questo ritardo? Perché stiamo ancora a parlarne come di qualche cosa da venire? Perché effettivamente questa tecnologia è molto giovane, nel senso che se è vero che il brevetto data 1995, quindi ha già sulle spalle un po' di anni, siamo ancora in realtà alla prima generazione di applicazioni sul mercato, ed è ancora certo. E quindi trovo la cosa anche abbastanza fisiologica, un po' meno fisiologico francamente è il ritardo con cui gli editori in Italia stanno ancora, per così dire, bloccando l'avvio di un vero mercato degli ebook inteso come contenuti. Sì, perché non ci vedono ancora motivi di guadagno. Abbiamo in linea Marco da Torino. Tombolini, mi aiuti a rispondere. Buongiorno Marco. Buongiorno. Mi dica. Ecco, io volevo aggiungere che ci sono milioni di libri che non sono più stampati e che grazie a un ebook uno potrebbe avere una biblioteca specifica su un argomento a portata di mano. Sì, tra l'altro questa è una delle grandi promesse di internet, la coda lunga, il fatto di poter trovare le nicchie, poter trovare prodotti che non sono più stampati. Tra l'altro mi chiedono anche che prospettive ci sono per i fumetti sull'ebook. Guardo Antonio Dini perché siamo due appassionati, io e Dini. Ma possiamo guardare anche il professor Colombo dell'Università Cattolica, perché ama molto i fumetti anche lui, che sono una forma in certi casi d'arte. Io credo che le prospettive siano molte, professor Colombo, l'idea di avere una libreria in cui si può comprare qualsiasi testo, niente va più fuori commercio, è un'idea meravigliosa. Ma sì, questo è uno dei sogni ricordati da Lawrence Lessig già nel suo Cultura Libera, cioè ci sono dei testi che, come dire, non sono formalmente ancora coperti da copyright, ma sono praticamente irraggiungibili, mentre liberarli in tutti i sensi, cioè lasciarli essere presenti in forma elettronica, anche riducendo i limiti posti dal copyright, permette di farli circolare e di rilanciare per esempio altri testi magari coperti da copyright dello stesso autore o dello stesso genere. E una battuta sul fumetto: il fumetto in questo periodo sta, come sanno tutti gli esperti che ho qua davanti, si sta ricongiungendo un po' al libro tradizionale, nel senso che il comic novel, tipo Walzer con Bashir, per capirci, piuttosto che Persepolis, e quindi si stanno ricongiungendo e quindi sono particolarmente adatti a questo tipo di fruizione. A me a questo punto sta venendo abbastanza un dubbio, vorrei che fosse Tombolini a darci una mano, ma non è che le case editrici hanno, come dire, paura della pirateria del libro? Voglio dire, in altri settori come quello discografico effettivamente l'MP3 ha creato un po' di problemi, in quello cinematografico anche la rigidità di quelle industrie forse non ha aiutato, e adesso nel mondo del libro, Tombolini, secondo lei che cosa sta succedendo? Ma io credo che questo sia senz'altro un punto, perché comunque le cose col digitale cambiano le carte in tavola. L'editoria potrebbe però avvalersi, per quello che riguarda la pirateria e che tipo di atteggiamenti adottare, anche della possibilità di guardare a quello che è già successo nella musica e tentare magari di non ripetere gli stessi errori delle major. Io credo in realtà però che dietro questo ci sia una difficoltà forse più più grande, cioè la difficoltà di ripensare il proprio mestiere. L'editoria, con il passaggio al digitale, richiede anche all'editore di riformulare il valore aggiunto, che non può consistere più, come nell'economia, diciamo così, di carta, semplicemente nella possibilità che si dà ad un autore di raggiungere, attraverso i servizi dell'editore, di stampa, di distribuzione e quant'altro, di raggiungere il consumatore. Questa parte, il digitale, non la richiede più, e quindi forse in maniera ancora non del tutto conscia ed esplicita, l'editore, e questo sarebbe il lato più serio effettivamente delle proprie perplessità, è costretto a ripensare il suo mestiere per, tra virgolette, giustificare il valore aggiunto che vuole rappresentare nella filiera del mercato del libro. Una battuta al volo, Tombolini, perché siamo in chiusura, abbiamo un minuto, ma secondo lei arriveranno in Italia presto gli ebook reader e i libri digitali? Quando? Gli ebook reader ci sono già, vorrei dire che c'è già anche un giornale che ha scommesso su questo, non in termini di esperimento, ma è già possibile comprare la versione della stampa, i paper. Direi che per quello che riguarda i libri, l'ultimo trimestre di quest'anno potrebbe riservare delle sorprese. Inviterei tutti a tenere d'occhio la prossima edizione della Fiera del Libro a Francoforte a metà ottobre, perché magari da lì viene fuori qualcosa di interessante. Quindi ultimo trimestre di quest'anno, staremo tutti sintonizzati. Io ringrazio Luca Calcinai, ringrazio Antonio Tombolini. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Google Chrome Frame. Microsoft non ci sta. La casa di Redmond ha contestato il lancio del plugin Google, pensato per estendere le funzionalità di Internet Explorer. Secondo Microsoft, il software, oltre a modificare radicalmente Internet Explorer, lo renderebbe due volte più esposto ad attacchi di malware e script dannosi. Un amico su Facebook, grosso, peloso e con maniere da gorilla. È Muosi, e non è uno zoticone grezzo e maleducato, ma un vero gorilla di montagna ugandese. La pagina di Muosi su Facebook è stata istituita dalla Wildlife Authority dell'Uganda come parte di una campagna di raccolta fondi per salvare la specie, di cui sono rimasti ormai 740 esemplari. Dopo il terremoto, ricominciare da zero anche in video. Nasce la Web TV FromZero.tv, un progetto pensato da Stefano Strocchi per raccontare la realtà delle tendopoli in Abruzzo. Il sito aggrega una serie di episodi da 5 minuti che documentano piccole storie e situazioni di vita quotidiana, che si concluderà con la chiusura delle tendopoli. A vederla, più che una lavastoviglie, sembra uno scolapiatti di alto design. Niente sportello, solo un paio di ripiani dove mettere i piatti e, soprattutto, niente spazio per i detersivi. È la lavatrice a ultrasuoni proposta dalla casa francese De Dietrich, che i detersivi non li usa proprio, poiché sfrutta suoni ad alta frequenza impiegati come avviene nella pulizia dei gioielli. C'è da sperare che gli ultrasuoni, oltre che lavare le stoviglie, non le mandino in frantumi. Bentornati, ultimi minuti, abbiamo un sms che volevo commentare di Gigi. Con gli ebook ci si priva della gioia del collezionismo e della ricerca della rarità, delle rarità. È un po' l'opposto, vero professore, da un certo punto di vista? Beh, diciamo, siccome nei consumi di libri io ho tante forme diverse di consumo, c'è il libro che prendo, leggo e poi butterò, magari farò book crossing, lo lascerò su una panchina sperando che qualcuno lo trovi, e poi c'è il libro invece che voglio assolutamente avere nella versione più bella. Probabilmente l'ebook consente di scorporare, quindi certo, quelli che voglio leggere e cambiare li tengo lì e gli altri li colleziono. Questa è una delle possibilità, poi naturalmente le persone sono molto complicate, sono persino più complicate delle tecnologie. Quindi. Anche noi siamo complicati, ma anche complicato Antonio Dini, che si è messo alla prova. Sì, ho fatto una sorta di esperimento di deprivazione, ovvero mi sono privato della carta, ma non dei libri che leggo per lavoro e per piacere. Sai che nel nostro lavoro come giornalisti, oltre che come professori, tra recensioni eccetera, e ho vissuto un mese con un lettore di ebook anziché utilizzare i libri di carta, e devo dire che lì il vero grande problema è il fatto che mancano i titoli in italiano. Si possono comprare comprare libri all'estero, però in italiano pochi. La sensazione di uso di lettura francamente non fa questa grande differenza. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il professor Colombo, cioè si tratta anche di libri che uno legge con l'intenzione, fra virgolette, di non conservarli, li legge più per bisogno. Un libro a cui tengo molto in quei giorni, in questo mese che ho passato senza utilizzare la carta, l'ho messo comodamente da una parte, lo leggerò e lo terrò nel tempo. Però ad esempio a me piacciono molto i gialli, i romanzetti anche di spionaggio eccetera, e quelle non sono cose che vuoi tenere tutta la vita in casa, perché sennò poi devi traslocare per farcele stare. Ma scalda? Cioè così a bruciapelo, cioè nel senso quando sei a letto, no, che hai la luce, il libricino in mano. Allora, è un computer, non scalda assolutamente, non è illuminato, lo schermo ha una tecnologia per cui occorre una fonte di luce esterna, artificiale o naturale come quella del sole, e a differenza del computer o del telefonino, anche d'agosto, anche sotto il sole a perpendicolo sul mare, riesci a leggerlo come se fosse un foglio di carta. Però non hai il rumore della carta. Però non hai il rumore della carta. Beh sì, non hai neanche la polvere. Io ho una libreria in casa che passo, vivendo a Milano, le giornate a spolverare, perché mi esce polvere da tutte le parti. E non hai la copertina? Cioè non hai neanche il discorso di guardare dietro l'autore? No, quello no, la copertina, poi c'è la foto della copertina. La cosa che ti posso dire, la vera sensazione sorprendente, è che non ti rendi conto di a che punto sei del romanzo. E io il primo romanzo che ho finito sull'ebook l'ho finito a tradimento in tram, senza immaginarmelo, si pigia per girare pagina e non c'era più la pagina dopo. E questo per voi è drammatico, perché non sai quante pagine ti manca, perché di solito le ultime pagine te le gusti un po', no? Perché dici adesso arriviamo, sta succedendo qualche cosa, invece di no, devi... Razionalmente lo potresti fare, perché il numero sotto c'è, però in realtà in quel caso no. Ma noi non siamo razionali, siamo emotivi. Io ringrazio il professore Fausto Colombo, ringrazio Antonio Dini, mi ringrazio da solo. L'appuntamento è per domani alle 16. Nova Lab 24.